Sono felice. 12 agosto 1923. Ebbi una grande gioia. Mentre stavo raccogliendo del ribes rosso, improvvisamente la vecchia Holzmannin accanto a me. Io, oh, cara Holzmannin, non mi hai dimenticata? Come va? Lei, io sono felice. Ed era sparita. Questa fu proprio un'apparizione veramente simpatica. Avevamo raccolto tante volte in giardino insieme e una volta mi disse: «Certo è che io farò ancora una volta un giretto per questo giardino». Abbiamo riso insieme ed io dissi: «Vieni ancora una volta a trovarmi». Ed essa poté veramente farlo. Nota. Il parroco Sebastiano Wieser dice di lei che era stata per lunghi anni ammalata e purificata dal dolore. Un tenero conforto per tante persone semplici, che oltre la loro povera condizione ebbero anche molto per le malattie. L'amore di Dio le avvolge. Holzmannin era la donna che provvedeva la legna per accendere le stufe e che le accendeva poi anche al castello.